stuff that they build. Suoni quasi patibolari quelli di Wolf Eyes con il loro splendido, se non che insomma assolutamente tremendo, No Answer, Lower the Floor, disco che chiaramente va a impattare con tutto un immaginario che prima insomma un po' descrivevo, che è soprattutto quello di questa urbanità portata così a un eccesso visivo, a un eccesso angoscioso, quasi a creare stati di allucinazione. In questo senso potremmo citare anche altre tecniche tra virgolette delle avanguardie storiche, quella di portare quasi a una sorta appunto di nausea angosciosa tale da creare momenti appunto allucinatori. Le musiche di Wolf Eyes di questo disco portano insomma sicuramente a questi momenti, a queste ipertrofie, a questo veramente ingrossamento dell'orecchio sonoro che va a impattare insomma con una realtà assolutamente deformata nel suo farsi così anche violentemente entropica, se vogliamo, cioè insomma quasi a esplodere all'interno proprio per senso di buio, di vuoto. Se poi questo lo uniamo a un'attitudine freak, weird di Wolf Eyes, che ha fatto scuola anche qua, insomma devo stare ben attento ai termini perché c'è scuola adesso, che prima insomma citare Wolf Eyes come tutelare di qualche cosa insomma potrebbe anche farli, come dire, irritare. Forse non è il caso visto insomma i personaggi, anzi se capita, quelle poche volte che è capitato qua da queste parti di vedere Wolf Eyes, fatelo assolutamente, è una cosa veramente al di fuori insomma di ogni aspettativa, veramente pazzeschi nel loro creare uno show sulla decostruzione di tutti gli show possibili e immaginabili, uno show che si rivolta contro se stesso quasi. E, Wolf Eyes con il loro immaginario chiaramente vanno anche a cogliere certi personaggi che appunto citavamo prima, come Chris and Cosi, ma come non citare ad esempio il progetto di Cam, storico progetto parallelo per un primissimo periodo, forse anche anticipato le sperimentazioni poi brutiste di White House, quindi di William Bennett, Phil Best, in questo caso c'era anche il grande Daniel Miller, anche qua insomma personaggio assolutamente incredibile e forse un po' anche come dire sacrificato in termini di musiche dirette e quindi suonate immediatamente da lui per insomma la Mute, quindi un progetto anche più ampio, progetto che è stato assolutamente fondamentale insomma in termini di immaginario sonore e non solo, se pensiamo a tutto o a buona parte insomma del techno pop, a tanta industrial, a tanta elettronica che ha dato vita a tanti filiazioni tecnoidi, deragliamenti anche dentro sperimentazioni noise, appunto pensiamo al Miller che produceva e che tra l'altro ha anche avuto modo di stampare Boyd Rice, ma non solo, insomma si può veramente fare e forse chissà la faremo anche in futuro una trasmissione proprio dedicata a questo genio del Novecento, del secondo dopoguerra, per perlomeno per certe musiche che evidentemente si nutrivano tanto di cosmice e quanto appunto di avanguardie e neoavanguardie. E Daniel Miller con William Bennett, tra l'altro mascherato dietro un moniker come Dr. Death, ci vuole insomma, visto che la progettualità di Cam era assolutamente mortificante per chi si volesse accostare a un suono minimamente insomma condiscendente, anzi un suono deragliante che porta alle estremi, alle ipertrofie già in nuce certe voglie e desideri tecnoidi futuristici e futuribili che poi appunto diventeranno materia sonora per tanti sperimentatori e tanti immaginari partendo insomma da Detroit arrivando fino ai nostri giorni. Cam quindi dal loro disco insomma, piuttosto introvabile, anche se adesso grazie alla rete insomma si possono riascoltare dischi che per anni insomma, sono stati sorta di sacro graal, quasi più immaginati, anzi senz'altro più immaginati che vissuti, boh, perché insomma gli ascolti erano per i pochi che all'epoca, qua stiamo parlando del 1980, avevano comprato quelle poche cassette in giro o quei pochissimi vinili che già all'epoca erano appunto in edizioni limitatissime e che invece finalmente in una sorta di esplosione qua di informazioni ci vengono appunto fornite dalla rete e dalla rete appunto andiamo a prendere Rampton, disco appunto di William Bennett con Dr. Death, ovvero grande Daniel Miller, un non ben definito fuckman, e poi personaggi che hanno girato dentro Cam come appunto Phil Best degli stessi White House, ma anche Fetus, altro storico guastatore, anch'esso assolutamente ipertrofico con le sue musiche sempre ai limiti del collasso esplosivo. Cam quindi dal loro Iron Man, un uomo di ferro che poi ispirerà anche quell'altro capolavoro che è appunto Iron Man di Tsukamoto, ma come dire, Sandir, oppure che ve lo dica fare, insomma, in maniera più italianizzata. Matrix insieme a Control Unit. Beh, questa sera, come dire, andiamo a trovare, a ritrovare fenomeni e iperfenomeni, anzi potremmo definirli, visto che l'argomento di questa sera di 451 frammenti sonori sono le ipertrofie, quindi fenomeni che vanno a far esplodere organi sonori, come tanta materia, tanta carne anche che c'è dentro la materia appunto di Control Unit, combo francese, anzi duo per meglio dire, Nini Morgia e Silvia Castel, che anch'essi, come poi i personaggi di questa sera, più o meno direttamente, loro lo fanno direttamente, vanno a ritrovare quel momento storico e anche fisicamente quella formazione americana che portò il noise rock forse alla fondazione, quindi più che portò, proprio sperimentò di fatto un nuovo modo di suonare il rock con quella matrice industrial, quel suono che appunto portava evidentemente in un altrove musicale, in un al di là, anche questo senso l'ipertrofia, impiantare il rumore dentro il rock. Tra l'altro il rock nasce anche come musica, insomma, legata al rumore, se pensiamo insomma allo sviluppo del blues, e quindi insomma musiche che evidentemente non potevano che nascere dal rumore, se pensiamo appunto alle musiche primitive, al blues delle origini, e che in questo caso proprio nella terra dove è nato il rock, non ce lo scordiamo mai, che qualcuno magari ha qualche dubbio ogni tanto, oppure se lo scorda proprio, o non lo sa, ancora peggio, il rock è nato in America, è faccenda soprattutto americana, poi ovviamente insomma è diventato un linguaggio internazionale, però dentro il DNA sicuramente musicale anche di Fatrix, per quanto insomma sono stati poi definiti anche giustamente insomma e sono stati dentro il movimento industrial, comunque di fatto dentro sia la loro strumentazione che dentro appunto la loro struttura, nonché insomma il linguaggio sonoro, e c'è tutto quel discorso legato a doppio filo con il rumore e il rock, e appunto il rumore del rock portato appunto alle estreme conseguenze, fatto amplificare, fatto esplodere, come tante volte anche durante le loro performance, ad esempio con GX Jupiter di Audio Research Survival, dove insomma robot pieni di carne, insomma autocostruiti, e si scontravano, un cyber disaster definitivo e assoluto, proprio andare allo scontro insomma tra biotecnologie che venivano appunto create in maniera autocostruite, quindi in maniera assolutamente autonoma rispetto anche così a uno sviluppo tecnologico, se vogliamo così ufficiale tra virgolette, no? E Fatrix spesso insomma collaborò appunto con Jupiter, GX Jupiter, con Marc Paulin, poi che creava questi esseri mostruosi tra robot carnificati con carcasse di vari animali. Comunque andate a rivedere, insomma, senza descrizioni alla The Sad che potrei fare, ma insomma potrebbero anche uscire piuttosto male, e con Control Unit che appunto tornano a riscoprire Fatrix e fanno questo disco decisamente interessante, Elegy for Rusted Soul, quindi anche il titolo la dice lunga insomma sull'attitudine sia di Control Unit, che già tra l'altro si erano fatti sentire, ultra sentire, con Massimo, uno dei i grossi nomi del glitch declinato in chiave noise, come pochi tra l'altro facevano negli anni 90. Control Unit hanno anche questo, come dire, questa segnalazione dentro una discografia non particolarmente ampia, ma che sta diventando sempre più importante. E se insomma andiamo a impattare con un suono decisamente eccessivo, quello di Dan Friel a suo nome, non tanto come Parts and Labor, dove invece qua si va veramente più verso il rock come lo conosciamo un po' tutti quanti, magari con qualche indie noise mischiato dentro appunto un linguaggio comunque decodificato dentro quello che possiamo definire genere rock, con invece Dan Friel pronto con il progetto a suo nome e stampa poco, ma quel poco che ha stampato è molto vicino appunto a una defragazione noise, ma noise che viene portato a un'assurdità, un suono grottesco, un synth noise che è iperbolico, oltre che essere ipertrofico, che va decisamente insomma a scagliarsi anche con così melodie facili e tentennamenti quasi così volutamente istupiditi, che però appunto con un suono quasi incontrollato diventano appunto questi schizzi di follia sonica. Dan Friel, Total Folklore, sì, che folklore qua a questo punto proprio bisogna dire, un folklore decisamente inventato. panzer impazzito, quello di Dan Friel, con il suo con la sua idea di folklore totale, total folklore, che ci porta insomma in un mondo decisamente insomma fantasticato, ipertrofico per tanti ascolti di guastatori sonori. Forse viene in mente, insomma, se proprio dobbiamo fare riferimenti, come stiamo facendo questa sera tante volte, forse un certo Steve Albini, quello forse dei Big Black, appunto questi deragliamenti sonori, queste rock che diventa sovraccitato e quindi si mischia col noise per appunto trasformarsi in una creatura quasi mostruosa. E così, per chiudere la faccenda di questa sera di 451, legato alle ipertrofie, se si può dire legato alle ipertrofie, oppure dentro, o forse è estrinsecato con un suono ipertrofico, e concludiamo con Ensemble Pearl, super gruppo formato da Atsuo, Bill Herzog, Michio e Curiaria e Stefano Malley, quindi parte dei Boris e parte dei Ghost, storico impro rock giapponese, storico formazione chiaramente, e Stefano Malley, che non ha bisogno, d'altronde l'abbiamo anche ascoltato prima con una scheggia dei Sanno, scheggia sonora ascoltata in maniera molto veloce con il capolavoro con Scott Walker, ascoltato invece in maniera un po' più approfondita la scorsa settimana, e con Ensemble Pearl, quindi verrebbe quasi da dire che c'è la formazione del supergruppo, ma lasciamo insomma queste vecchie definizioni, anche perché immagino che non gliene freghi niente insomma i personaggi che sono all'interno. Invece interessa molto andare a ricercare quel suono tanto sperimentato da Ghost, ad esempio, con il loro impro rock noise, ma anche con queste venature stranamente psichedeliche. Boris poi da sempre insomma per suoni eccessivi legati tanto al metal drone, ma anche altri momenti più decisamente rumoristi, se non addirittura anche con parentesi di tecnopop, anche lì decisamente eccessivo e decisamente ipertrofico, e insieme fanno questo Ensemble Pearl che va a trattare le musiche di tutti quanti, forse più spostandosi sul vecchio Michio Curiara, appunto dei Ghost, forse come padre anche tutelare di un suono decisamente allucinato e allucinatorio, e che porta all'eccesso insomma certe sonorità rock psichedeliche, impro, noise, drone, insomma tanti tanti elementi che vanno a mischiarsi, non per fare un patchwork, ma per far esplodere una materia. Vi saluto, vi rimando a mercoledì prossimo, chiaramente con 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, e fate i bravi, insomma lo sapete, no? Lo dovete fare, ve lo dico quasi tutte le volte, poi se poi mi scordo insomma magari ricordatemelo, oppure insomma faccio ammenda per le volte scorse che non me lo sono ricordato, anche per le volte future magari. Ciao.